siete tonificati, avete sentito di più i vostri muscoli, ma non siete rigidi, perché dovete sempre mantenere l'attenzione anche al respiro. Che ne dite? Potete mantenerla? Magnifico. Anna Maria, noi metteremo questo esercizio anche sulla pagina di Essere Benessere, in modo che i nostri ascoltatori che al momento non possono seguire, non hanno potuto seguire passo passo il tuo esercizio, possano ripeterlo da casa. Ma soprattutto, Anna Maria, è uscito il tuo libro, il grande manuale illustrato di Pilates, dove suggerisci tantissimi esercizi, edito da Red. Sì. Questo è veramente un toccasana, perché accompagni il lettore a prendere consapevolezza del proprio corpo e della propria postura, e questo è il trucco. Ma sì, è fondamentale, perché se non si capisce da dentro come siamo fatti e non si ha consapevolezza, si copia, ma si è uno specchio di qualcosa, bisogna essere consapevoli e sapere come fare le cose. 5 copie del grande manuale illustrato di Pilates di Anna Maria Cova sono a vostra disposizione oggi, messe a disposizione dalla stessa autrice, quindi anche dalla casa editrice, e autografate. Anna Maria, le distribuiremo ai nostri ascoltatori, che ci potranno suggerire dei metodi, il loro segreto per avere una postura corretta, oppure ci chiederanno aiuto per cercare di trovare quella consapevolezza che è assolutamente fondamentale per stare in armonia con il nostro corpo, con tutte le strutture. Grazie ad Anna Maria Cova. Grazie a te, Nicoletta. Grazie, a presto. E in studio con me voglio invece salutare il dottor Gianluca Melegatti, che è tornato a trovarci, medico sportivo e primario fisiatra della riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. Allora, dottore, adesso siamo pronti per fare un confronto tra la postura che dovremmo avere e quella che normalmente teniamo. In fondo la postura è il modo in cui posizioniamo il nostro corpo nello spazio mentre stiamo fermi o quando ci muoviamo. Sembra molto facile, ma in realtà dietro c'è un lavoro d'équipe molto raffinato. Assolutamente sì. Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Nicoletta. È molto complicata la postura. Intanto è semplice da dire, è la posizione del nostro corpo nello spazio e quindi ci aiuta a relazionarci con l'ambiente che ci circonda, a relazionarci anche con le altre persone. Esiste una postura corretta e ideale. Mi è piaciuta molto la chiacchierata con Anna Maria Cova, perché in modo molto semplice, molto lineare, ci ha fatto capire che cos'è un corretto allineamento, vale a dire una corretta postura, cioè una posizione che deve non generare tensioni muscolari, che non deve sovraccaricare articolazione del nostro corpo e che non deve provocarci dolore. Questa è la postura corretta teorica. È chiaro che la postura dipende, come dicevi, da tantissimi fattori. Sì. Soprattutto dipende da questi piccoli organuli, sensori che abbiamo nel nostro corpo che ci indicano com'è la situazione della periferia. Si chiamano recettori e ne abbiamo sotto la pianta dei piedi, e ne abbiamo a livello degli occhi, a livello dell'udito, quindi gli occhi, la vista, l'udito, la posizione del capo, la masticazione, il modo in cui appoggiamo i piedi, sono tutti fattori che intervengono nel condizionare il modo in cui noi ci posizioniamo, il modo in cui noi ci relazioniamo con l'ambiente esterno. Certo. Come dovrebbe essere la postura? Come ho detto, vale a dire una posizione che ci permette di non avere tensione, o meglio, che ci permette di avere il massimo equilibrio, la bacinella di cui parlava Anna Maria Cova. La massima economia, cioè una posizione che ci permetta di non avere un dispendio energetico, di non far fatica, e il massimo comfort. Però la realtà non è così, perché siamo costretti purtroppo quotidianamente ad avere posture che sono un po' lontane da questo ideale di postura. Basti pensare alla nostra posizione fissa in auto, alla posizione alla nostra postazione di lavoro, a scuola, durante l'attività sportiva. Dobbiamo pensare a una postura statica e a una postura dinamica. Dottore, le posture sono diverse, poi cambiamo perché non siamo un masso appoggiato sulla terra. Certo. Continuiamo certo. A cambiare quando portiamo i pacchi della spesa, quando stiamo alla scrivania, quando andiamo incontro ad un amico. e ciascuno ha un po' la sua, eh? Ma idealmente possiamo suddividere le posture in grandi gruppi. A me piacerebbe che lei ci aiutasse con descrivendocele, perché i nostri ascoltatori possano riconoscersi nel tipo di postura che lei descrive e quindi chiedere delle informazioni, dei consigli, eventualmente capire quali sono i punti deboli sul, magari le quali fa, certo, su quali fasce muscolari lavorare. In sostanza ci sono, io riconoscerei tre posture fondamentali. La prima è la postura che noi riconosciamo spesso ed è una postura che ci fa in stazione eretta mantenere il corpo un po' in avanti, il corpo che pende un po' in avanti. E per inquadrare bene questo discorso, noi dobbiamo immaginarci una linea immaginaria che è la linea della postura corretta ed è una linea immaginaria che passa per alcune parti del nostro corpo, per esempio l'orecchio, la spalla, il fianco, il ginocchio e il malleolo. Se voi pensate a questa linea ideale e vi immaginate a guardarvi di profilo in uno specchio, potete capire che se voi mantenete questa linea che passa per i punti che ho citato, avete a grandi linee una postura corretta. Ci sono delle persone che sono un po' più avanti, atteggiano il corpo un po' più in avanti rispetto a questa linea, persone che atteggiano il corpo un po' più indietro a questa linea e persone che hanno la parte finale del rachide, vale a dire il tratto lombare, diritto. In sostanza queste tre sono le tre posture più frequenti e dipendono da retrazioni o allungamenti muscolari. In linea con noi abbiamo il dottor Marco Sciolan, responsabile del Centro M1 di Milano, fisioterapista e osteopata, che ci aiuterà a individuare i punti di forza e di debolezza di ciascun tipo di postura. Voi intanto potete chiamare all'800 24 00 24 e il dottor Melegatti e il dottor Sciolan vi rimetteranno in equilibrio. Soprattutto io penso che il lavoro che faremo oggi è, dottore, cercare di diventare consapevoli, certo, di come ci atteggiamo. Intanto grazie al dottor Sciolan per essere con noi. Dottore, buongiorno. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti. Molte persone mi stanno scrivendo, mi noto che ho le spalle curve, si nota magari quando passeggiamo davanti ai negozi, guardiamo con l'occhio la vetrina e dire oh mamma mia, oppure una fotografia che ci hanno scattato durante le vacanze, diciamo ma quello lì sono io. Allora, dottor Sciolan, le spalle che sono un po' ripiegate, curve. Esatto, allora come menzionava prima il dottor Melegatti, esiste questa linea immaginaria che viene tecnicamente definita linea a piombo e rispetto a questa linea a piombo noi possiamo avere delle modificazioni della postura del nostro corpo. Spesso la postura che si vede è quella delle spalle in avanti, che è legata a una situazione di ipercifosi, cioè di una situazione di tronco molto piegato in avanti con le spalle chiuse in avanti. Ovviamente ogni postura ha come caratteristica delle tensioni su determinate catene muscolari. Le catene muscolari sono una serie di muscoli che lavorano insieme con un compito unico e che determinano appunto questa tensione, determina degli spostamenti rispetto a questa linea. Uno dei più frequenti è quello con le spalle in avanti, è normalmente legato a una resistenza, quindi a una rigidità della catena anteriore del torace e della spalla. Ci sono su questa base altre posture, una molto frequente che è quella, una postura con lo scivolamento del bacino in avanti, che si chiama tecnicamente sway back, che presenta invece delle tensioni più specifiche a livello degli arti inferiori. Quindi lavorando però su quelle che voi chiamate catene muscolari, noi possiamo sciogliere un po' queste tensioni, perché là dove le catene muscolari sono tese, poi alla fine arriva il dolore. Arriva il dolore, certo. Se volete farvi sciogliere, chiamate l'800 24 00 24 e abbiamo anche il libro di Anna Maria Cova che faremo recapitare a qualcuno di voi. Abbiamo Ciro da Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Niente, io di professione faccio il conducente di autobus, quindi sono seduto molte ore tra lavoro, casa e via dicendo. Sono affetto perennemente un dolore a fascia lombare. Sì. Proprio, quindi volevo qualche consiglio magari sulla posizione da assumere. Grazie Ciro, e con Ciro aiutiamo tanti dei nostri ascoltatori che ci stanno seguendo mentre guidano. Infatti alcuni di loro mi hanno scritto: non posso fare l'esercizio perché il volante come faccio a tenerlo? Metto in bocca. Beh, la situazione di Ciro è una situazione molto comune a tante persone che sono costrette parecchie ore alla guida di un autoveicolo o di un mezzo pubblico. Fortunatamente la maggior parte dei mezzi pubblici adesso la seduta del guidatore rispetta un po' la fisiologia e quindi aiuta a mantenere una postura tutto sommato abbastanza corretta. È chiaro che dobbiamo aiutarci anche al di fuori, dando per scontato che il sedile è ergonomico, dando per scontato che Ciro ha la possibilità di appoggiare il piede o uno dei due piedi a terra e quindi non rimane coi piedi a penzoloni, sì. Dando per scontato che l'altezza del volante è un'altezza che gli permette di non avere un'eccessiva anteposizione delle spalle e un dorso curvo, dobbiamo anche consigliare a Ciro di fare qualche cosa al di fuori del lavoro, che non è sempre facile, però qualche buon consiglio per qualche esercizio di allungamento o di rinforzo muscolare è chiaro che aiuta tantissimo a sopportare le ore di guida. Dottor Sciolan, per chi sta tante ore alla guida, quali sono gli esercizi più consigliati? Beh, sicuramente come primo intervento il posizionamento di un piccolo cuscino dietro la schiena nella parte bassa aiuta a mantenere una posizione più eretta e con una fisiologia della schiena più consona al tipo di attività che si sta facendo. E l'altro consiglio sicuramente sono degli esercizi statici di allungamento muscolare della catena posteriore delle gambe. Cioè? Quando noi siamo, per esempio, un esercizio classico è la postura al muro in cui ci si mette a squadra con le gambe contro il muro e il corpo a terra. Questo allunga tutta la catena posteriore e di fatto simula un pochino la posizione da seduto. Se lei pensa, quando siamo seduti, certo, una resistenza dei muscoli posteriori ha un'azione sul bacino e di conseguenza sulla schiena. Quindi questo già è un grosso aiuto. Quindi Ciro potrebbe, al di fuori del lavoro, sdraiarsi in terra, aprire bene le braccia, sì, trovare una buona situazione di contatto con il suo tronco e appoggiare le gambe al muro fino ad arrivare quasi ad angolo retto e mantenere quella posizione per qualche secondo per allungare, come diceva Marco, la catena posteriore. Andiamo a Giovanni che ci chiama da Biella. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Volevo trasmettere una mia piccola esperienza. Grazie. Prima, in maniera inconscia, quando andavo a letto, facevo dei piccolissimi movimenti e fino ad arrivare a un punto di equilibrio perfetto. Successivamente l'ho fatto in maniera consapevole e continuo a farlo. Sono movimenti quasi impercettibili di tutto il corpo, dalla testa, le dita, le braccia, ai piedi. Dopodiché trovo effettivamente una posizione che mi consente di addormentarmi nel momento in cui desidero io, pochi istanti dopo, e ho sempre un sonno rilassante, energetico, e mi risveglio sereno con grande capacità fisica. Grazie Giovanni, proveremo anche noi. Buona sì, giornata. Te lo consiglio. Buona giornata, grazie per averci chiamato. Enrico da Salerno, eccomi, buongiorno. Qua. Sì, eccomi, buongiorno. Sì, io volevo un consiglio. Sì. Allora, mio figlio 25 anni, nonostante la sua magrezza, ha sempre la pancia pronunciata. C'è sempre, quindi è un problema, io credo, di postura. Sì. E qual è il vostro consiglio? A chi rivolgermi, cosa fare? Beh, probabilmente è un problema di postura in un ragazzo di 25 anni, ma fa sport il ragazzo, posso chiedere? Sì, palestra, però la palestra tende a irrobustire la parte alta, certo, del corpo, però comunque è sempre evidente, molto pronunciata questa pancetta, certo. E io ho provato sì con qualche... con qualche palestra ad avere un aiuto, ma in realtà non si è risolto niente, per cui magari una figura un po' più Sì, ci vorrebbe, certo, ci vorrebbe qualcuno che si occupasse, che si occupi di posturologia, che potesse dare qualche consiglio. Ecco, questo è l'esperto di riferimento, il posturologo. Esiste il posturologo, che non è altro che la posturologia, è una specializzazione, e molti medici, fisiatri, ortopedici, osteopati, anche terapisti della riabilitazione sono in grado di occuparsi a buon diritto e con soddisfazione dei pazienti di posturologia. E ci sono degli esami specifici da fare, bisogna è l'occhio clinico soprattutto l'esame obiettivo, e quindi l'occhio clinico di chi visita, magari integrato da qualche esame radiografico molto semplice. Molti di noi assumono delle posizioni scorrette senza rendersene conto, io per prima, perché non posso dirvi come sono seduta con le gambe attorcigliate, la spalla bassa, e spero che il dottor Melegatti non mi stia guardando. Ci rendiamo conto che le nostre posture sono scorrette quando iniziamo proprio ad avere dei piccoli dolorini, delle tensioni, quando ci alziamo dalla sedia e facciamo fatica, quando ci sentiamo pesi, certo. Ad esempio sulle spalle, o il collo diventa rigido. Allora, in tutti questi casi, voi non avete da fare altro che chiamarci all'800 24 00 24, perché noi adesso andiamo a sentire i mercati e poi il meteo, e poi siamo a vostra disposizione. A tra poco. Essere e benessere. Pancia in dentro e petto in fuori, sembra una posizione amica del nostro benessere fisico e, pensate, anche mentale. Star bene allineati non solo evita mal di schiena e dolore, ma aiuta anche il nostro umore, la percezione che abbiamo di noi stessi. Aumenta in un certo senso anche l'autostima. Lo dimostra una ricerca condotta dalla Marshall University in California, e noi ne vogliamo parlare con il professor Di Gianantonio, che è in linea con noi, ordinario all'Università D'Annunzio di Chieti. Buongiorno, bentornato professore. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, è intuitivo, quando noi siamo tristi, abbattuti, preoccupati, ci rinsacchiamo, ci ripieghiamo su noi stessi, è naturale, no? Viene un po' automatico, perché il modo in cui noi ci muoviamo nello spazio e nell'ambiente racconta anche molto di quello che si agita dentro di noi, delle nostre emozioni, dei nostri pensieri, delle nostre paure. Assolutamente sì. C'è però da dire, rispetto a questa bella ricerca, che quando uno assume una postura retta, quando fa una respirazione profonda, quando si concentra rispetto alle attività e rispetto ai compiti che deve fare, dunque mette il corpo nella funzionalità massima, respira di più, aumenta l'ossigeno, concentra la propria forza psichica, tant'è che nella ricerca viene anche sottolineato il fatto che aumenta il testosterone, dunque il corpo si predispone a dare il meglio di sé. E questo è un meccanismo molto noto in natura, perché gli animali, quando devono essere concentrati, quando devono dare il meglio di sé, quando si devono preparare ad un confronto con l'ambiente, forse anche ad una battaglia per conquistare il territorio, per conquistare una preda, assumono una postura, assumono un metabolismo che li predispone a dare il meglio di quello che possono disporre. E questo è il risultato di questa ricerca, che dice come la stazione retta, la contrazione dei muscoli, il campo visivo a testa alta e la capacità di mettere a disposizione nella relazione con l'altro le parti migliori di noi rappresentano sicuramente qualche cosa che si iscrive al benessere e all'area delle ottimizzazioni. Quindi puntiamo anche sulla respirazione, che ci fa aprire anche le spalle, ci fa assumere una postura che ci prepara, come si dice, no? Affronta la vita di petto. Grazie al professor Di Gianantonio per essere stato con noi. Dottor Melegatti, ci sono delle relazioni molto strette, abbiamo visto, tra emozioni e postura, tra la sicurezza e l'insicurezza. Penso ad esempio alle ragazze, alle adolescenti, che nei primi anni, quando iniziano ad avere le prime forme, magari sono intimorite, certo, no? vivono questa situazione in modo un po' così conflittuale e tendono a nascondere un po'. Questo e quindi l'atteggiamento di spalle in avanti, di per nascondere curvo, il seno, cercano di nascondere il seno, e questo crea nel tempo una situazione posturale che può favorire anche qualche disturbo muscolare, sempre di carattere tensivo muscolare, che però poi si possono trasformare nel tempo in come si di fatto si possano cronicizzare e creare una sorta di predisposizione a sviluppare quelle tensioni muscolari che molte donne poi hanno più avanti. Come dicevi, è chiaro, è evidente che una postura rilassata indica una persona che è a proprio agio nell'ambiente, sì, in quella situazione, mentre viceversa una postura rinchiusa, molto contratta, così dimostra una situazione di insicurezza e sì, di disagio. Sì, è intuitivo. Questo lo percepiamo osservandoci e guardando gli, certo, altri, però riuscire a rompere questo meccanismo è difficile. È difficile, però le persone dovrebbero veramente acquisire la consapevolezza del proprio corpo e studiarsi un po' di più nelle varie situazioni, sia statiche che dinamiche, guardarsi un po' più allo specchio, non tanto per narcisismo, ma quanto per studiare il proprio corpo e studiare soprattutto le posture. Dottor Sciolana, lei ci può aiutare, perché noi tante volte suggeriamo di fare attività fisica, di cercare qualche cosa che piaccia a noi, che ci diverta, che ci dia soddisfazione e al nostro corpo. Allora mi chiedevo, ci sono tanti metodi, ci sono tante discipline, tante strade, dallo yoga, noi abbiamo iniziato col Pilates. Lei ci può fare una veloce panoramica delle tecniche oggi a disposizione che possiamo seguire per riappropriarci un po' di quella consapevolezza che abbiamo, che stiamo toccando sempre più con mano, ne stiamo parlando oggi, è indispensabile per rimanere in armonia con il nostro corpo, in asse, in equilibrio? Assolutamente sì, permetto che le correzioni posturali vengono fatte comunque a fasi, quindi a step, e prevedono una prima correzione che sia statica e quindi una correzione che viene fatta anche a proprio domicilio attraverso degli esercizi autogestiti, magari consigliati da un fisioterapista o da un osteopata ancora meglio, e la correzione posturale poi segue una correzione dinamica dove si lavora un pochino più sul balance, che è detto in italiano l'equilibrio, che prevede il controllo dinamico della postura, dopodiché si può passare a un lavoro dinamico sul controllo posturale durante il movimento e in quel caso subentrano tutte quelle terapie o forme di ginnastica che sono molto utili, tra le quali troviamo molto indicato il Pilates sicuramente, e il Feldenkrais, tutte queste ginnastiche dove comunque si lavora sulla percezione del proprio corpo e il controllo della postura durante il movimento. E noi anche, personalmente, sì, al nostro centro seguiamo questo percorso fino ad arrivare a portare le persone a fare il Pilates, dove facciamo anche del fisiopilates, quindi un aspetto clinico del Pilates proprio indicato alle posture. Dottor Melegatti, Pilates, yoga, Feldenkrais, non c'è l'imbarazzo della scelta? Ci sono delle indicazioni per aiutarci a scegliere? Ma in genere le indicazioni vengono date dalla figura professionale che poi consiglia di fatto questo, quindi è bene che ci sia un operatore che può essere un osteopata oppure un fisiatra o anche un ortopedico che abbia competenze di posturologia, che possa indicare in base alla situazione clinica che lui vede se è meglio fare un certo esercizio di Pilates per allungare la catena muscolare posteriore oppure fare utilizzare un'altra metodica, una metodica posturale diversa. Sicuro di essere nel gruppo giusto? 10 minuti al miglio, no? C'ero anche la settimana scorsa. Sì, ma il fatto è che non c'è mai stato uno carino nel gruppo. Tutti quelli carini sono nel gruppo dei 7 minuti. Quindi sono il più carino dei lenti, è questo che stai dicendo? Tu hai già corso la maratona? Gli ultimi 4 anni. Wow! Tu invece? È la prima volta. Pronto? Ho il collo bloccato. Ha chiamato Charlotte mentre mi stavo asciugando i capelli. Tutto il mio corpo ha risentito della lunga maratona. Mi dispiace. Come posso aiutarti? Non lo so. Mi fa male persino reggere il telefono. Sbrigati a venire. Senti, ho... Grazie! L'attività sportiva è un toccasana, lo ripetiamo sempre, ma deve essere svolta in modo adeguato, non deve infatti provocare ulteriori tensioni e dolori. Ne parliamo tra poco con i consigli di Stefano Baldini, che intanto saluto perché è già in linea con noi. Stefano, ciao! Buongiorno, buongiorno a voi. E noi andiamo di corsa a sentire la viabilità e poi torniamo di corsa da Stefano Baldini, consigli per chi corre. Essere e benessere. E siamo tornati insieme, Stefano Baldini è in linea con noi, grazie Stefano. Stefano, la corsa è sicuramente uno degli sport più praticati, però non ci si può improvvisare. Mi dai 3 regole per iniziare bene, per tenere ben presente il problema della postura? Beh, sicuramente la corsa è anche uno di quegli sport nei quali insomma la postura corretta è fondamentale, perché certo, l'impatto con il terreno è comunque abbastanza traumatico, quindi se uno non è pronto a sostenerlo può andare incontro a più problematiche che benefici. E i 3 consigli fondamentali che mi sento di dare sono quelli sicuramente di non esagerare con un'attività che va al di là delle proprie possibilità e quindi utilizzare gradualità e non sbagliare naturalmente le calzature, che sono diciamo il nostro così cuscinetto che ci fa da protezione rispetto al terreno. Come si fa a scegliere la scarpa giusta? Ci si deve affidare ai consigli di un esperto? Sì, basta andare in un negozio specializzato, ce ne sono tantissimi in Italia e solitamente questi sono così attrezzati anche con un tapis roulant o addirittura dei macchinari che ti simulano. Sì, che simulano, oppure che in posizione statica insomma ti danno consigli e risposte sul tuo modo di appoggiare i piedi. Chiaro che quando si corre poi è un'altra cosa, quindi il tapis roulant è già un passo in avanti notevole. Quindi non esagerare, mettere le scarpe giuste, acquistare la calzatura idonea. E il terzo consiglio? Gradualità. Certo, non volere tutto subito, come spesso invece succede, perché insomma la corsa, essendo esercizio fisico molto semplice ma anche insomma abbastanza impegnativo, è chiaro che deve essere insomma affrontato con una giusta progressione. Grazie a Stefano Baldini per essere stato con noi, buonissima giornata. A voi, arrivederci. Grazie. Silvana ci chiama da Como all'800 24 00 24. Buongiorno a tutti, complimenti, siete in gamba. Grazie. Vediamo se mi sono osservata nella mia postura. Mi piace ogni tanto fare la cyclette perché spero sempre di ingrossare un po' le gambe, ma vabbè. E poi non so, per andare in bicicletta, quindi faccio quello. Ma volevo sapere se per caso, forse assumo una postura sbagliata, perché ogni tanto sento dopo, magari il giorno dopo, un po' di dolore nella zona renale. Dottor Melegatti, bene o male? Diciamo bene, perché questo ci dà la possibilità di introdurre il discorso della posizione, della postura in sella, che è veramente di grande attualità, ed è molto comune sentire queste situazioni. Dipende sicuramente da una posizione in sella che non è per la signora in linea quella corretta, quella giusta, semplicemente. Quindi il primo consiglio che posso dare è quello di non scoraggiarsi e di non abbandonare la cyclette perché c'è questo dolore renale. Varrebbe la pena di valutare insieme a un esperto dei semplici accorgimenti: l'altezza della sella, la posizione della sella in orizzontale, l'altezza del manubrio. Dipende molto dai parametri fisici della signora: l'altezza delle gambe, il rapporto tra la lunghezza delle gambe e la lunghezza del tronco. Tutti i parametri che vanno individuati, vanno studiati per ottenere una postura in sella la migliore possibile, che possa ottemperare al discorso che facevamo all'inizio, certo, cioè posizione la più economica, la meno stressante dal punto di vista delle tensioni muscolari e la meno aggressiva sulle strutture articolari. Abbiamo in linea con noi Nadia, ci chiama dalla provincia di Venezia. Buongiorno Nadia. Buongiorno a lei Nicoletta e ai suoi ospiti. Pongo subito il quesito. Io ho 59 anni e d'abitudine, come stile di vita, cammino molto durante la giornata, vado molto in bicicletta per fortuna e posso garantire che è un ottimo rimedio. Il guaio inizia quando devo stare seduta magari al computer o a qualche riunione, per cui magari dopo una mezz'oretta decido di alzarmi e sento dei dolore, fastidio a livello proprio della zona lombare, proprio muscolare. Ecco, mi chiedevo se posso trovare una postura che si adegui a una seduta diversa, perché non posso portarmi via la mia poltroncina o sedia. Certo. Ecco, e che tipo di esercizio fare anche a livello, non so, proprio mentale o così, stando da seduta, alternare qualche movimento. Grazie mille. Bene, intanto questo è un caso veramente classico che ascoltiamo spessissimo. Innanzitutto approfondire il problema del dolore lombare, perché può essere effettivamente un problema causato da una tensione muscolare eccessiva, da postura prolungata, oppure potrebbe anche essere un problema diverso, un problema discale, cioè un problema a livello del disco intervertebrale, oppure un problema artrosico. Ma considerando, dato per scontato che questa valutazione venga fatta, il problema della postura, bisogna riverificare bene la posizione seduta. La sedia deve essere sufficientemente alta in modo che la signora abbia un angolo di 90 gradi tra il tronco e le cosce e un angolo di 90 gradi tra le cosce e le gambe. La postazione deve essere tale per cui il computer deve essere all'altezza degli occhi, la scrivania deve essere dell'altezza giusta, vale a dire non deve essere troppo bassa, quindi verificare bene la postura. E poi l'idea di alzarsi ogni mezz'ora è un'idea vincente. Brava, bravissima. Quindi continui a farlo. Allora, intanto avevamo 5 libri a disposizione che oggi abbiamo distribuito così: a Gianni da Biella, che ci ha regalato il suo consiglio, Nadia, Silvana, Luca da Caserta, che ci ha scritto, è un agente di commercio, è sovrappeso, ha dei forti dolori al coccige e vuole occuparsi un po' della sua postura, ma anche a Laura, che mi ha scritto: ho imparato a tenere una postura corretta, non avere tensioni muscolari e osservando il mio gatto. Anche Laura riceverà il libro sul Pilates tra poco, tra pochissimo, la prossima settimana riprendono le scuole. I genitori, come ogni anno, si preoccupano: zainetti pesanti, troppo pesanti, rovineranno la schiena dei nostri bambini, e poi le posizioni sui libri, curvi sui libri, studiano tanto, insomma, a scuola si deve andare, i libri sono pesanti. Che cosa possiamo fare per i nostri figli? Il dottor Stefano Negrini è in linea con noi, direttore scientifico ISICO, Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale di Milano. Buongiorno dottore. Buongiorno Laura, a me legati e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno a Laura Vanossi, che è qua. Io sono Nicoletta. Ma è uguale, ormai io e la Laura siamo interscambiabili. Ma per me è un piacere se lei mi scambia con Laura. Dottor Negrini, questi zainetti sono pericolosi per la schiena? Molte mamme dicono: verrà la scogliosi, ma è possibile o possiamo assolutamente star tranquilli? Allora, danni definitivi da zainetto alla colonna vertebrale non c'è nessuna prova che ci sia, ed siamo tutti convinti, noi esperti, che questo non succeda. Mentre il mal di schiena, quello purtroppo invece abbiamo visto sì essere un fenomeno abbastanza comune, un mal di schiena da sovraccarico, perché purtroppo gli zainetti oggettivamente pesano troppo. Più del dovuto. Non dovrebbero superare il 10-15% del peso corporeo, mentre soprattutto in prima media, quando i bambini sono ancora piccoli e il carico scolastico aumenta molto, si arriva a punte settimanali, cioè una volta a settimana si supera il 30% del peso corporeo in alcuni casi, che è veramente un'esagerazione che per legge in Italia sarebbe vietata negli adulti, quindi non è vietata nei bambini. Dobbiamo comunque invitare i nostri ragazzi a studiare sicuramente, ma anche a muoversi, a fare attività sportiva, allenare il proprio fisico, la conoscenza del proprio corpo. Dottor Negrini, io sono in chiusura, ma voglio assolutamente ricordare ai nostri ascoltatori, ai genitori all'ascolto, che sulla pagina di Essere Benessere abbiamo messo il decalogo della schiena che va a scuola a cura di ISICO. Leggetevelo, prendete nota, tranquillizzatevi e mi raccomando, poi passate all'azione. Aiutate i vostri figli a crescere in salute. Grazie al dottor Negrini, al dottor Sciolan, al nostro esperto, il dottor Melegatti, per essere stato con noi. Vi saluto, vi do appuntamento a lunedì. Buona giornata. Radio 24. La passione si sente. essere e benessere.